Caro Milan, non ti smentisci mai, sei sempre il solito ipocrita. Radio Kabul. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui signori, sono le 9:07, pronti per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo in diretta e saremo in diretta fino alle 11 con voi, con il nostro Leonardo Lentopede Manera in arrivo sulle metropolitane milanesi e la nostra redazione da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, che è un po' distratta effettivamente, oggi sarà un po' difficile metterle, farle tenere il focus sulle cose da fare, perché deve sapere tutto di questa notiziuola che arriva dal Regno Unito di due soggetti che hanno deciso di non essere più principi, duchi, duche, duchesse, non lo so. Ma sì, dai, la vicenda di Harry, Harry e la moglie, come si chiama? Meghan? Ma sì. Chi se ne frega! Non esageriamo. Se si sveglia John Peter Sloan, giuro che lo chiamiamo e sentiamo un commento, un editoriale di John Peter Sloan sulla notizia più cliccata nel mondo, ancora più cliccata, mi dicono, delle vicende, degli sviluppi Iran, Stati Uniti e crisi internazionale. Bravi, bravi, continuate così. Va bene, ma non è di questo, precipuamente di questo che parleremo. Parleremo di Iran ancora. Parleremo di montagna, mi è piaciuto questo tema e voglio tornarci, questo tema del salvare la montagna, la vita nei piccoli comuni di montagna, ci torneremo oggi su questa vicenda. Avremo anche l'avvocato ospite, l'avvocato del 27enne che ha ucciso 7 tedeschi. Si è messo alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il consentito e ha ucciso 7 tedeschi di una comitiva molto numerosa. La vicenda la conoscete e sarà il nostro ospite in apertura, ma prima tanti altri temi. Allora invito l'Alpino a partire. Enthusiasm about the future. C'è chi mi scrive rosica, Milan, rosica di che? C'è chi vorrei essere duca, conte, principe, re? No, non lo so, perché di che cosa dovrei rosicare, dice un ascoltatore, non lo so. Allora, 800240024 è il numero per chiamarci. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp. Allora, della situazione internazionale parleremo tra poco, un po' più avanti, attorno alle 9:20. Voglio dire, ieri vi ricordate che ho letto di Mattia Feltri e tutta la vicenda su Di Maio, il curriculum di Di Maio, ministro degli esteri, e la situazione vista alla luce dell'importanza o non importanza italiana. Ragazzi, che dire quello che è successo ieri? Abbiamo sentito parlare anche poco fa da Simone Spezia e Maria Latella. I giornali sono veramente teneri nel raccontare lo stupore da parte dei diplomatici che sotto traccia parlano del pasticcio che ha combinato ieri l'Italia. Dovevamo incontrare i due leader riconosciuti della Libia, solo che uno è il nostro, come si suol dire, è al-Sarraj, il premier libico, e l'altro è quello che stiamo cercando di portare al tavolo del dialogo, ma non è quello riconosciuto da noi, è Haftar. Solo che li abbiamo invitati tutti e due, ma è arrivato prima Haftar, cioè quello che sarebbe, tra virgolette, per far capire, il nostro nemico, e allora il nostro amico Sarraj non è più venuto. Pasticcio clamoroso. Il pasticcio inquieta i diplomatici. Leggo sul Corriere della Sera, e quando si parla di pasticcio, tra virgolette, in termini diplomatici, vuol dire un disastro totale in realtà. Ieri, visto che sono andato a vedere finalmente Tolo Tolo di Zalone, e tra l'altro, aperta parentesi, se sento ancora mezza polemica su un film che ha dimostrato per l'ennesima volta la genialità nella comicità di Checco Zalone mi viene veramente da ridere, visto che nella sua carriera ha preso in giro gli uomini sessuali, i terroristi islamici, quelli del posto fisso, quelli del successo a tutti i costi berlusconiano, non si vede perché non possa fare delle battute sull'immigrazione. C'è veramente delle polemiche, la famosa polemica sterile, rubrica dell'anno scorso qui inventata da Leonardo Manera, dovrebbe nascere per le polemiche sul film di Checco Zalone. Comunque, la migliore battuta del film, non spoilerò niente, è solo una battuta, è quando si trova a Tripoli a un certo punto e urla, lo capirete se andate a vedere il film, grazie Haftar! Ecco, mi è venuta la provocazione, visto il livello della trattativa diplomatica nostra, perché non mandiamo Checco Zalone in Libia, magari fa meno danni? È una battuta, eh? È una battuta. Grazie Haftar! 9-12 minuti, signori, sapete che uno dei miei cavalli di battaglia è la questione del reddito di cittadinanza. Premessa, la faccio sempre, 7000 volte, se no mi accusano, non sono, non, sentite bene, non sono contro il reddito di cittadinanza come principio per aiutare chi è in difficoltà. Sono a favore dell'aiuto di chi è in difficoltà economica. È chiaro? Lo devo ripetere ancora? Non sono contrario ad aiutare chi è in difficoltà economica. Quindi il primo che mi dice: ah, è facile, parli tu che non sei in difficoltà economica, dice: allora fai fatica a comprendere l'italiano. Quindi, detto tre volte questa premessa, non sono contro un aiuto, sono però contro chi dice le bugie, le menzogne. Allora, oggi c'è un'intervista al presidente dell'INPS, Tridico, sulla Stampa, intervistato da Alessandro Barbera, fa tutta un'analisi sulla questione del reddito di cittadinanza e poi risponde alla domanda. Allora, perché dico sono contrario a chi dice le bugie? Perché come c'è stato presentato il reddito di cittadinanza? Un aiuto per le persone in difficoltà, per reinserirle nel mercato del lavoro. Ed è questa seconda parte che è, secondo me, la menzogna. L'ho detto più volte, sentite cosa risponde il presidente dell'INPS Tridico all'intervista di Alessandro Barbera sul tema. Non crede che il reddito sia un disincentivo al lavoro, in particolare al Sud? Risposta di Tridico. Il reddito è anzitutto un sostegno contro la povertà. Senti bene qui, la parte, senti anche il burocratese, la parte delle politiche attive, traduco per voi il reinserimento del lavoro, potrà essere efficace se ripartono la crescita e gli investimenti. Cioè ci sta dicendo che si può reinserire le persone nel mercato del lavoro se c'è lavoro, se ripartono la crescita e gli investimenti. E aggiunge Tridico: i percettori del reddito non sono lavoratori particolarmente qualificati e far decollare il sistema di inserimento al lavoro non è facile. E allora, come ce l'avete presentato? Allora dovevate dire, non Tridico, il governo, dovevate dire è una mera assistenza a chi è in difficoltà. E qui, sulla base di una non menzogna, uno poteva dire sono d'accordo o sono contrario. Ma dire è un'assistenza e poi vi inseriamo nel mercato del lavoro, adesso si scopre che è un po' complicato inserire nel mercato del lavoro persone non qualificate, lo dice Tridico, non lo dico io, e soprattutto inserire nel mercato del lavoro nel momento in cui non c'è lavoro. Non c'è lavoro. E adesso lo si scopre. Dopodiché, signori, si scopre anche... che cosa? L'elenco di quelli che sono impropriamente detti furbetti, ma sono invece delinquenti del reddito di cittadinanza. In Sicilia anche ieri hanno scoperto un commerciante di bagheria che vendeva la merce abusivamente e in più percepiva anche il reddito di cittadinanza. Ma soprattutto la Guardia di Finanza di recente ha fatto sapere che il campionario è molto molto ampio. Imprenditori, negozianti, soci di Onlus, cassieri, baristi, camerieri, lavoratori in nero, fotografi, cantanti neomelodici. A Rimini un settantenne aveva un valore immobiliare, diciamo una proprietà immobiliare del valore di 800.000 euro e percepiva reddito di cittadinanza. Maledetti! Maledetti! A Milano in 16 facevano i venditori ambulanti in occasione di manifestazioni organizzate al Forum di Assago e percepivano reddito di cittadinanza. Una donna sorpresa a lavorare in nero a Bergamo nell'officina del padre con reddito di cittadinanza, la donna, non il padre. Maledetti! Lavoratori in nero anche sempre in provincia di Bergamo venivano. Una donna di origine libanese simulava una separazione del coniuge indicando però, non indicando il reddito dell'ex coniuge che poi non era ex, 120.000 euro e chiese e ottenne il diritto al reddito di cittadinanza. A Torino la badante di origine rumena col sussidio, ma non aveva dichiarato di aver incassato nei 4 anni precedenti 140.000 euro. Maledetti! Maledetti! Nel Frusinate, 37 scoperti, un imprenditore aveva omesso di dichiarare intere quote di una società dove tra l'altro il figlio, facente parte del nucleo familiare, lavorava in nero. E 26 persone, un tempo nomadi, cosa vuol dire un tempo nomadi? Sono state denunciate perché avevano ottenuto il reddito nonostante, per un valore complessivo di 110.000 euro, nonostante avessero diversi possedimenti immobiliari. Maledetti! Potrei continuare. Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera aveva riassunto l'elenco di tutti questi percettori del reddito di cittadinanza. Maledetti! Maledetti! Vabbè, possiamo dare un premio Giachetti o andiamo avanti? Non lo so, forse anche ridondante, però premio Giachetti torna 2020. Avete la faccia come il culo. Allora signori, dai, dai. Il primo ospite di oggi è l'avvocato di uno dei due avvocati di Stefan Lechner. Chi è Stefan Lechner? Forse lo avrete letto. È un ragazzo di 27 anni, di Casteldarne, siamo in Alto Adige, che ha investito in Valle Aurino una comitiva di turisti tedeschi, ne ha uccisi 7. In Germania non si parla comprensibilmente d'altro. 7 ragazzi che erano in vacanza e sono stati distrutti nella vita da una persona che era al volante certamente con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Voglio salutare uno dei due avvocati di Stefan Lechner, vale a dire l'avvocato Alessandro Tonon. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Lei è uno degli avvocati di Stefan Lechner, ragazzo che intanto rimane in carcere. Questa è la notizia più importante, la notizia più recente. Rimane in carcere. Perché voi non avete chiesto la scarcerazione? Perché la difesa non è che è obbligata a chiedere immediatamente la liberazione. Per diversi motivi abbiamo ritenuto di chiederla in un secondo momento. In un secondo momento. Cosa vuol dire in un secondo momento, se possiamo entrare un po' più nei dettagli? Lo stato psicologico del ragazzo è devastante e momentaneamente lui è seguito forse meglio all'interno della struttura carceraria che fuori, e quindi noi non siamo neanche pronti per chiedere una misura alternativa al carcere e abbiamo quindi preferito attendere. È vero però la notizia scritta dai giornali che chiederete una perizia psichiatrica, questo è il vostro intento? I giornali scrivono tante cose, no, non abbiamo mai detto una cosa del genere, è troppo presto, non abbiamo neanche la coppia degli atti e per quanto riguarda la linea difensiva non abbiamo ancora deciso come procedere, ma la perizia psichiatrica non è una cosa che proviene da questa difesa, insomma noi non abbiamo mai detto una cosa del genere. I giornali riportano la dichiarazione dell'altro avvocato, Alberto Valenti, che credo sia avvocato. No. Ero presente anch'io quando è stata rilasciata questa dichiarazione. E il senso della dichiarazione era che bisognerà valutare tutti gli elementi emersi e bisognerà valutare anche la sua condizione psicologica, ma è riferito allo stato attuale, non al momento in cui è avvenuto il sinistro. E comunque un conto è una consulenza per capire qual è il suo stato psicologico, un conto è una perizia per la capacità di intendere e di volere ai fini processuali. Certo. Non era questo il senso della dichiarazione del collega. E questo è un punto importante. Si è parlato molto delle condizioni, appunto, psicologiche in cui si trova il vostro assistito, che dai giornali ovviamente lei può immaginare viene anche definito come un mostro, uno che ha tolto la vita a 7 persone ferendone altre, che guidava ubriaco. Voi lo avete, come dire, incontrato di persona. Che cosa ci può dire della situazione in cui versa Stefan? È un ragazzo psicologicamente devastato, impaurito, che ha più volte detto che preferiva morire lui al posto degli altri ragazzi, e quindi non è un mostro come sui social viene descritto dal popolo che scrive senza sapere, e neanche il mostro di cui la stampa parla. È un normalissimo ragazzo come tanti altri che si vedono quotidianamente per strada. Purtroppo però i casi li ha visti di recente. C'è in questo paese la cultura un po' di mettersi alla guida nonostante il tasso alcolemico oltre il consentito. In questo caso pare che fosse davvero molto oltre il consentito. Pare, io non ho avuto la copia degli atti, ma a prescindere dall'episodio in sé, quello che è sicuro è che non è un mostro, è un normalissimo ragazzo. E purtroppo la fatalità ha voluto che ci fossero 17 persone sulla carreggiata proprio nel momento in cui sopravvingeva lui con la sua auto. Beh, però sopraggiungeva, questo almeno dei rilievi, oltre la velocità consentita, e soprattutto sicuramente non si metterà in dubbio che fosse ubriaco oltre il consentito. Sì, noi non mettiamo mica in dubbio che avesse valori alcolemici elevati, però in una strada di montagna alle 2 di notte non è che tutti i giorni trovi 18 persone che attraversano la strada, e quindi anche la sfortuna ha avuto il suo peso in questa vicenda. Però a prescindere da tutto non è un mostro perché si è verificato questo incidente. Secondo lei è la prima volta che si metteva la guida in questo stato? So che questo non c'entra, diciamo, con il caso in sé, però è il tema di cui si parla in Italia, visto che sembra molto diffusa come moda. Beh, per quanto riguarda il mio assistito, lui è incensurato, non è mai stato fermato prima, quindi io prima non lo conoscevo, quindi a me non risulta che sia stato fermato in precedenza, anzi tenderei ad escluderlo perché sennò risulterebbe dal certificato penale. E poi, dopodiché, se in Italia si deve o non si deve, io sono un avvocato penalista, non sono uno psicologo, un sociologo o qualcosa del genere, quindi non prendo posizione su questo. Un'ultima questione, appunto, da avvocato: ci può spiegare esattamente il reato contestato e, alla luce del reato e delle 7 vittime, che cosa concretamente rischia secondo il codice penale dal punto di vista degli anni? Allora, il reato ipotizzato è il 589 bis, che è l'omicidio colposo stradale. La pena massima prevista è 18 anni, però ci sono tutta una serie di aggravanti e attenuanti che devono ancora essere verificate se sussistono o meno, quindi è un po' presto. La stessa Procura della Repubblica deve fare ulteriori accertamenti, però la pena massima teorica è 18 anni. 18 anni sia che uno uccida una persona, sia che ne uccida 7, come in questo caso? Sì, beh, calcolando dagli avanti la pena massima comunque 18 anni. 18 anni. Va bene, la ringrazio, avvocato. Detto che vedremo come va la vicenda, ripeto, Alessandro Tonone è uno dei due avvocati di Stefan Lechner. Mi sembra che la notizia più importante che ci abbia dato è che non è vero che chiederanno la perizia psichiatrica per il loro assistito. Ho iniziato parlando dell'ennesimo, detto dai giornali, insuccesso diplomatico, vogliamo chiamarlo così, dell'Italia di fronte alla situazione attuale per quel che riguarda la Libia, ma è l'altro fronte quello anche che preoccupa, Iran-Stati Uniti, perché coinvolge anche noi. Voglio salutare Nicola Pedde, che dirige l'Institute for Global Studies, è direttore di ricerca sul Medio Oriente al Centro Militare Studi Strategici. Buongiorno Pedde e grazie di essere qui. perché ieri si è assistito nelle dichiarazioni soprattutto del presidente americano Trump, qualcuno dice, a un abbassamento del livello di rischio di un'esplosione di un conflitto mondiale, e questo è un bene ovviamente, però quello che mi ha incuriosito è quando Trump ha chiamato Germania, Francia, Russia e Cina a rendersi conto che l'intesa sul nucleare raggiunta dal governo Obama con l'Iran è pessima e va rinegoziata. Questo che cosa presuppone, secondo lei, Pedde? Allora, gli Stati Uniti non fanno mistero da diverso tempo di essere alla ricerca di un nuovo accordo con l'Iran. Il presidente Trump, in una sorta di così, damnatio memoriae di tutto ciò che è stato realizzato nella precedente amministrazione, ha definito il JCPOA il peggior accordo possibile e si è detto interessato a stipulare un nuovo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Per fare questo ha impostato quella che è la sua abituale strategia di negoziazione, cioè quella di avere un forte approccio competitivo con la controparte, che forse può funzionare nel mercato immobiliare newyorkese, ma sembra avere qualche problema nella gestione delle relazioni internazionali. Sì. E siamo arrivati quindi a un punto di stallo dove in questo momento sicuramente c'è una fase di netto miglioramento della crisi che abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni, ma siamo ancora ben lontani dal poter individuare i margini per un nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran. Questo sì, però quando lei vede per esempio dall'Iran dire ci fermiamo, perché fino a 24 ore fa durante i funerali del generale Soleimani si sentiva dire vendetta, colpiremo, poi ci sono stati. È stato un bombardamento in Iraq, ma pare anche addirittura preannunciato. E poi nel giro di 24 ore sembra invece dire, sembra che la ragione lentamente stia tornando tra le due parti. Può essere davvero così possibile un capovolgimento repentino della situazione? Ma, diciamo che è stata una crisi del tutto innecessaria e che è stata gestita, credo, dagli iraniani in modo più razionale in questo caso. Diciamo che lo stereotipo sull'Iran che accompagna un po' l'immagine del paese nel corso degli ultimi 40 anni è quello di un attore irrazionale. E questo ovviamente fa sì che qualsiasi cosa fatta all'Iran assuma un profilo, un connotato spesso e volentieri letto attraverso questo stereotipo. Nel caso specifico abbiamo assistito invece ad una risposta assolutamente calibrata e soprattutto una risposta che doveva esserci, perché chiaramente l'Iran non poteva non reagire all'uccisione di un proprio generale, ma che sembra andare nella direzione di dire all'avversario cerchiamo di evitare l'escalation nel modo più imperativo possibile. Sì, come dire, se voi vi fermate ci fermiamo anche noi, abbiamo fatto la nostra azione dimostrativa, possiamo chiamarla così, in Iraq, dovevamo farlo alla stessa ora in cui voi avete colpito noi, ora fermiamoci. Sì, allora io sicuramente la dinamica generale è questa. Sul fatto che sia dimostrativa ho delle perplessità, nel senso che il tipo di equipaggiamenti utilizzati e la capacità dimostrata nella gestione dell'attacco non la qualificano proprio così come una mera azione dimostrativa. C'è stata un'operazione importante sotto il profilo militare e sotto il profilo delle capacità. È stata gestita politicamente in modo tale da impedire categoricamente che ci fossero vittime tra il personale militare americano. Questo era l'obiettivo imperativo degli iraniani. Sì, in questo dico dimostrativa, cioè nel senso comunque è stato un attacco missilistico, certo non è stato come dire niente di meno, però è stato fatto sotto controllo, mi può passare questo termine? Sì, sicuramente quello, ecco, però siamo su un profilo diciamo operativo che ha visto l'impiego di missili tattici, di missili balistici. Quindi insomma, non è l'attacco di Katyusha che abbiamo molto frequentemente insomma contro la zona verde a Baghdad o in altre aree della regione. Qui stiamo parlando di missili balistici, che ovviamente innalza enormemente il contesto dell'operazione in corso. Sì. Pedde, ci può spiegare esattamente che cosa non piace a Trump di questo accordo sul nucleare e che l'America vorrebbe rinegoziare per questo? Allora, guardi, io dubito fortemente che Trump abbia una visione tecnica dell'accordo. Quello che a Trump non piace è il successo conseguito dal suo predecessore e da tutto ciò che è stato il contesto che ha portato ad un epocale cambio di passo nelle relazioni con l'Iran, che per una serie di ragioni, peraltro anche altamente comprensibili sul piano degli Stati Uniti, visto quello che è la storia che ha caratterizzato il rapporto tra i due paesi nel corso degli ultimi 40 anni, aveva trasformato l'amministrazione Obama in un qualcosa di sensazionale sotto il profilo della politica internazionale. Però ora, questo magari poteva servire quando Trump cercava un'affermazione elettorale. Sono passati ormai quasi 4 anni dalla prima presidenza Trump, e quindi no? Cioè, siamo però di nuovo in una fase di elezioni. Di elezioni, e oltretutto una fase di elezioni anche caratterizzata da problemi di varia natura che riguardano l'attività del presidente. Al di là di questo, sta dicendo che forse è stato anche un modo per mettere un po' in ombra la questione dell'impeachment. Questo sarebbe però un po' clamoroso, è quello che dicono alcuni, ma sarebbe incredibile rischiare di generare un conflitto del genere per mettere sotto traccia una notizia di politica interna, di fatto. Ma sicuramente non è quella la ragione principale, è una ragione che concorre, sono molte le ragioni che concorrono quando si fanno operazioni di questo tipo. Il vero problema è che cosa può ottenere l'amministrazione Trump, nel senso che un nuovo accordo difficilmente potrà essere molto diverso rispetto al JCPOA dal quale si sono tirati fuori. Gli iraniani potrebbero essere interessati forse a prolungare di qualche anno la durata di questo accordo, ma tecnicamente ciò che era stato raggiunto nel 2015 era già un livello elevatissimo, quindi non vedo che cosa l'amministrazione oggi, alla luce peraltro anche di ciò che è accaduto in questa ultima fase, possa ottenere. Quindi questo è un po' l'elemento critico di questa fase. Trump ha bisogno di un accordo che si vada a chiamare l'accordo Trump, che poi verrà dipinto come il miglior accordo mai raggiunto dagli Stati Uniti in politica internazionale. Nella realtà è molto difficile che questo nuovo accordo possa essere sostanzialmente diverso dal JCPOA, perché alcuni paletti sono comunque non negoziabili da parte di Teheran, anche alla luce delle tensioni ultime, anzi soprattutto alla luce delle tensioni ultime. Un'ultima domanda gliela faccio, se vuole, sul ruolo dell'Italia. Certo, qui più spostato sul fronte libico più che sul fronte iraniano e americano, oddio, anche sull'America, si è detto che non siamo stati avvisati, ma come dire, che dobbiamo dire del ruolo diplomatico dell'Italia? È un ruolo storico nel Medio Oriente che pian piano abbiamo perduto, oppure lei pensa di no? Indubbiamente c'è una fase di stasi importante nella nostra politica estera, soprattutto quella regionale in Medio Oriente. Perdere un ruolo diventa più complesso, nel senso, noi abbiamo una reputazione e un approccio alla politica estera nella regione che tutto sommato è apprezzato dai più. Questo ovviamente non produce risultati così in assenza di un'azione della politica estera, e quindi in questo momento manteniamo una posizione che probabilmente anche in futuro potrà essere utilizzata per conseguire dei risultati, ma sicuramente in questo momento non riusciamo a sfruttarla appieno. Sul fronte della Libia il vero problema è che non abbiamo coraggio di prendere decisioni importanti, nel senso che noi abbiamo una posizione particolare in questa crisi e abbiamo un ruolo molto ben definito. L'aprire a quello che è un contendente di questo ruolo, il generale Haftar, che non ha alcuna intenzione di negoziare con noi e con la nostra parte, allargando un po' la sfera del fronte nell'ambito del quale noi siamo inseriti, non porta grandi benefici. Haftar non vuole negoziare, Haftar non vuole un processo di riconciliazione nazionale, Haftar vuole governare il paese in indipendenza, sì. E lo vuole fare grazie al sostegno dei suoi dantecausa, che sono ben noti. Aprire su quel fronte e farsi vedere deboli politicamente su quel fronte, a mio avviso, non pagherà nella strategia di negoziazione italiana. Beh, è stato chiarissimo, alla luce anche di quello che è successo ieri. Io la ringrazio, Nicola Pedde, voglio ricordare, direttore dell'Institute for Global Studies e direttore di ricerca sul Medio Oriente al Centro Militare di Studi Strategici. È il momento di fermarci un minuto, due, per la pubblicità. Vedo che si aggira Leonardo Lentopedi Manera. Se volete chiamarci, 800 24 0024. 1, nessuno, 100 Milan. Bravi, bravi, bravi duchi. Andate a lavorare anche voi. Milan non è una questione di polemica, è che non fa ridere il film, non fa ridere. Di Maio non ha detto che dovevano finire in prigione quelli che rubavano il reddito di cittadinanza, ma in prigione dove? Vanno in prigione, andranno in prigione, cioè devono rispondere di un reato, questo assolutamente sì ed è giusto. Scusate, ma come fanno ad avere il reddito di cittadinanza se devi presentare l'ISEE? Vedo un uomo che è entrato con un cappello di lana in studio. È anche un maglione di lana, forse anche addirittura di cashmere. È il buon Leonardo Manera. Buongiorno. Beh, la stagione lo richiede, no? Non mi sembra di essere così originale, diciamo. Beh, il cappello in studio, insomma, fa calduccio. Ma io sono calvo, le persone pelate come me hanno più freddo alla testa, soprattutto nella parte posteriore, qui sotto, in zona nuca, appena sopra la nuca. Sì. Quella è la zona che soffre di più, quindi io metto i cappelli di lana anche ad agosto. Ecco. Sono contento perché siamo al terzo giorno di ripresa e ti vedo nettamente in fase di miglioramento rispetto ai primi due giorni. Oggi vado dal medico. Bene, perché stavi bene, giusto per certificare che è una finta, un finto miglioramento. Oggi andrò dal mio medico di base, che non vedo da alcuni mesi, tra l'altro. Quindi mi fa anche piacere. Fai come le persone anziane che devono passare due ore di tempo e vanno a fare la fila. No, vado a richiedere alcuni esami che devo fare. Okay. Non la vedo da credo 6-7 mesi. Il mio medico di base, oggi mi farà anche piacere rivederla. È una donna. È una signora. Sì, io come medici di base ho sempre avuto donne, non lo so perché. Mi è sempre capitato così. Prego, mi visiti, dottoressa. È inutile che tu ammicchi o cerchi di insinuare che io scelga medici di base donna perché voglio essere toccato da questo. No. Posso anche trovare altrove, eventualmente volendo. Ecco. Va bene, dai, sono le 9:40 minuti. Sai che stiamo cercando di capire se John Peter Sloan. No, so già cosa stai dicendo. No, è presto, no. Never Before Eleven. Ma no, è lui? Di più è lui. Lui, no, secondo me, no, non è lui, ma comunque. Una volta è venuto a trovarci alle 10. Sì, ma perché lo sapeva. Secondo me dormirà mediamente fino alle 2, come ogni persona sana dovrebbe fare. Come fino alle 2? Ogni persona sana. Ma sentite, cari ascoltatori, voi che siete la parte produttiva del paese, a parte che se dormiste fino alle 2, i nostri ascolti sarebbero zero e quindi potremmo chiudere. Potrebbe fare dalle 4 alle 5, per esempio, come orario. Quindi la gente si sveglia e ascolta tutti i convocati alle 2. Oh, sentiamo la giornata come inizia. Quello sarebbe il modo giusto di vivere. Poi, siccome ci sono delle perversioni che si vanno diffondendo sempre di più, è pieno di perversi nel mondo che si vogliono alzare presto e lavorare presto. Vabbè, comunque. Comunque, poi. Io ieri ho visto Tolo, tu non l'hai visto ancora? No, non l'ho visto. Trovo stucchevoli le polemiche, veramente ridicole le polemiche su questo film, a parte che molte delle polemiche sono nate da gente che neanche l'ha visto il film. Riguarda l'ascoltatore che dice non fa ridere, io ho riso, forse sì, il livello di battute e comicità come numero è inferiore rispetto ai film precedenti di Zalone, ma sì, perché ha voluto introdurre anche un tema per fare un attimo pensare, far riflettere. Però io ho riso, insomma, le battute ci sono, magari un po' meno di numero, ma ci sono. A me sai cosa fa ridere tutta questa storia? Come prima veniva dalla critica, no, anni fa veniva lui invece denigrato, adesso è stata invece la santificazione di Checco Zalone. Cioè si passa da una fase all'altra, da no è volgare eccetera eccetera, adesso è stato santificato dalla critica. Sì. Al di là di riguardo al film che io non ho visto, ma mi fa ridere questi atteggiamenti così estremi, probabilmente inadeguati nel primo, nel secondo. A me invece fa ridere perché Checco Zalone è sempre stato un po' dissacrante, no? Ti ricordo gli uomini sessuali. Ma non sto parlando di lui, sto parlando dell'atteggiamento della critica. Poi. No, invece sulle polemiche, io voglio dire che ha criticato, ha ironizzato, ha riso sugli uomini sessuali, come li chiamava lui, sui terroristi islamici, su il posto fisso, gli statali, eccetera. Però appena fa due battute sull'immigrazione, insomma, si tutti a indignarsi. Cioè, non so, veramente. Io inviterei qualcuno ad andare a vedere i film di Aki Kaurismäki, che è il mio preferito. Io vado, io ho una, io non sono andato perché? Perché io ho sempre un'avversione verso i film di grande successo. Io non andai a vedere E.T., non sono andato a vedere tutta la serie di Harry Potter. Perché quando vedo che un film è visto da tanti, io automaticamente non vado. E invito ad andare a vedere invece i film di Aki Kaurismäki, un regista che non. Sono quelli che ti hanno ispirato. Il polacco, per esempio, e altre cose. Però al di là di quello, sono molto divertenti. Quindi, beh, adesso divertenti. I film, non la parte che faccio io che fa cagare, no, che lo so, che no, fa schifo. No, no, dicevo, ma dico in generale, i film di Aki Kaurismäki, andateli a vedere. Date fiato anche al cinema, così meno mainstream. Ma tu sei di quelli che se una cosa ha successo per a priori non. Esatto, io sono così. Ho un brutto carattere, un faccio schifo. Come, sì, sono un radical chic. Sei uno snob. Sì, sono uno snob, sì. Sei un intellettuale del. Sai da cosa deridere la parola snob? Sei nella Torre Eburnea, insomma. Turris Eburnea. Snob deriva da sine nobilitate, cioè c'erano i nobili, certo, che potevano vivere in un certo modo, poi c'erano, diciamo, gli arricchiti che non potevano permettersi per rango quel genere di vita e venivano definiti dai nobili sine nobilitate, cioè senza nobiltà, che però volevano avere uno stile di vita così come i nobili. Ecco. Allora c'è l'intellettualone subito che ci dice: ma come, Kaurismäki non è finlandese, perché dite che è polacco? Non abbiamo detto che è polacco, abbiamo detto che i film di Kaurismäki, che è finlandese, hanno ispirato Leonardo. Quando io faccio Manera, in particolare un film polacco di Aki Kaurismäki che si chiamava Nuvole in viaggio, che a mio gusto è tuttora uno dei film più divertenti che ho visto. Se lo trovate, Nuvole in viaggio di Aki Kaurismäki, che è finlandese, che ma è finlandese. Tu hai fatto il cinema polacco. Sì, perché finlandese è meno evocativo. Esatto, più, il cinema è polacco, vabbè, sembrava un cose po' che più non triste, interessano a nessuno comunque. Sentiamo Claudio da Roma. Buongiorno Claudio, eccoci. Pure di buon 2020 a tutti. Buon 2020, vai. Un po' in ritardo, però ci siamo. Vabbè, purtroppo oggi ho avuto comunicazione. Senta, io sentivo quelli che protestano a chi prende il reddito di cittadinanza, a tutto punto con lei ha ben specificato e fa piacere, ma parlavamo di comici, no? Ma io penso a Renzi, a Cortina, seduto all'intervista e dice che il reddito di cittadinanza è una brutta cosa, cioè questo già è più comico di Checco Zalone, lei che ne pensa? Ah, dice Renzi a Cortina, che Renzi a Cortina che critica il reddito di cittadinanza, vabbè, ma dal punto di vista adesso no, non sono di quelli che dice Renzi è andato a Cortina scandalo, come c'è lo scandalo di quella del Movimento 5 Stelle che è andata alle Maldive, ma chi se ne frega, ma cioè, no, avere la possibilità di andare a fare una vacanza a Cortina alle Maldive non è, dove sono andato anch'io, non a Cortina una volta, ma alle Maldive, non è per me fonte di dire ah, la ricchezza non è una colpa. Renzi fa il politico e ha detto la sua sul reddito di cittadinanza. Insomma. Io non credo di essere mai stato a Cortina, ci sono passato vicino, poi avevo paura di entrare. Sì? Sì, perché pensavi che ti chiedessero, non so, il 7.40, il 7.30, non lo so, no, pensavo perché che avevi paura? Perché sai che ci sono quei posti che hanno la fama di essere molto costosi e allora l'idea è che anche se solo entri per un parcheggio ti chiedono 25 euro all'ora. Sì. Allora io ho girato un po' intorno alle mura di Cortina e poi e me ne sono andato via. Quindi hai speso 25 euro di benzina. Come non sono mai entrato a Pienza? A Pienza non so, ma per altri motivi. La mitica, il pecorino. Ah, perché il pecorino. Si di sente Pienza, l'odore tu di formaggio già da un chilometro prima di Pienza. Io stavo andando con una mia ex fidanzata. Dai, di che puzzano i cittadini di Pienza, no, borgo meraviglioso nel senese. Dillo, dillo. C'è molto odore di formaggio e io, non mangiando formaggio, mi sono dovuto fermare alle porte di Pienza perché già da un chilometro si sentiva il gran odore di formaggio. Ragazzi, andiamo al traffico. Andiamo al traffico, va che bene. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. 1, nessuno, 100 Milan. smentendo Manera, John Peter Sloan ci ha risposto e in apertura di seconda ora sarà al nostro... No, sarà a dare il suo contributo sul pregnante tema sul quale si interroga tutto il mondo della detronizzazione. Elisabetta Fusconi è arrivata in redazione e mi ha detto: ma non parliamo della detronizzazione. Ho detto: ma che cacchio è la detronizzazione? Harry, Meghan che vanno a lavorare. Ti interessa molto? Zero. Senti come un WhatsApp, magari ti interessa più questo. Volevo chiedere un consiglio a Leonardo. Io sono fidanzato da circa 8 mesi e sono felice, non abbiamo ancora litigato, tutto procede bene e volevo sapere come affrontare la cosa da Leonardo. Io non so come ti chiami, caro ascoltatore, ma già sentendo il tuo tono di voce, basta il tono. Era allegro, era sereno. Allora, io prevedo delle grandi corna in questa coppia. Perché sentendo il tuo tono di voce, che mi sembra molto pacato, quindi una persona pacata probabilmente, lei dopo un po' comincerà a pensare: sì, ma questo fidanzato, insomma, è sempre pacato, posato, risolve ogni problema, è sempre amorevole con me. Che palle, comincerà a pensare lei, e comincerà a guardarsi intorno. Senza dirtelo immediatamente, ma poco alla volta noterai dei piccoli cambiamenti nel suo comportamento, poco alla volta sarà meno amorevole, accamperà delle scuse per fare meno spesso l'amore, perché già, di fatto, si starà accoppiando, lo starà facendo con qualcun altro. Tu passerai un momento di grande crisi fino a quando poi lei ti rivelerà l'arcano, passerai un momento difficile e quindi poi ripiegherai su altri tipi di donne che possono apprezzare anche il tuo carattere così bello, ma probabilmente poco apprezzato dalla tua attuale compagna. Per concludere questa previsione nefasta, tutto questo succederà, adesso sono insieme da 8 mesi. Nel giro di 4-5 mesi. Ti do ancora 4-5 mesi. Auguri, caro ascoltatore, sarà una lunga vita insieme, secondo me. Amici ascoltatori, allegria! Manera è il mio uomo ideale, anche sul cinema siamo in sintonia. Peccato che sono troppo vecchia. Si firma la snob milanese. Non si butti giù, cara ascoltatrice. Ci chiami all'800 24 0024. Se vuole la chiamiamo noi, abbiamo il numero di telefono, se ci autorizza, perché... D'accordo per Pienza, sono andata 2 volte, svenivo a ogni angolo. Pienza è inaccessibile. Per gli Olezzi, Chiara. Per chi non ama il formaggio, Pienza è sempre off limits, ma non dentro, già fuori, già da 2 chilometri, no, adesso, te lo giuro. Adesso. Io non sono riuscito neanche a avvicinarmi a Pienza. Chiara da Londra sveniva agli angoli di Pienza, così te le immagini, è in un angolo. Cosa c'è, tesoro? E sviene per gli Olezzi. È lo stesso problema che ho talvolta quando ci sono i mercati, che ci sono le bancarelle tutte certo. Di formaggio. Lì per me è un dramma completo. Infine Gabriella dice: Milan, tu alle Maldive ci sei andato con i tuoi soldi, Renzi e quell'altro, non so chi è quell'altro, ci vanno con i nostri soldi. No, ma guardi Gabriella, mi risulta dalle dichiarazioni dei redditi a fine anno, vengono pubblicate anche sui giornali, Renzi ha dichiarato l'anno scorso 800.000 euro, che è molto molto sopra la mia dichiarazione dei redditi. È una banalità rispetto alla dichiarazione dei redditi di Leonardo Manera, ma quindi 800.000 euro andrà, che con poi i soldi, arrivano, immagino, oltre che dallo stipendio di parlamentare, anche dalle varie conferenze. Sì, perché sì, ho visto sì. Che anche Conte ha dichiarato 1 milione di euro come sì, reddito. Saranno... lui è da avvocato, forse. No, l'anno scorso non faceva più l'avvocato. Sì, vero. Saranno conferenze che vengono fatte in giro, immagino. Ma forse, che vengono... forse sono ancora le parcelle che rimangono del suo studio. Può essere. Sì, non lo farà lui, ma insomma, suo studio. Vabbè. A che ora chiudiamo oggi? Tra ben 6 minuti. Allora ce la faccio forse. Ma certo, è tutto calcolato. Allora, dunque ci siamo. Anche quest'anno sta per arrivare il picco dell'influenza, che sarà verso fine gennaio. L'influenza arriva sempre nello stesso periodo e sarebbe bello contattare un virologo per capire come mai. Secondo me, quando il creatore ha inventato l'influenza e il picco l'ha messo proprio lì verso fine gennaio, lo ha fatto per quelli che vedono i ponti ancora troppo lontani. Le feste natalizie sono passate ormai da un po', Pasqua non è ancora vicina e i classici pontoni nemmeno, e allora probabilmente si è trovato un modo per farci stare a casa qualche giorno e riprendere contatto con noi stessi. Sì, perché quando abbiamo l'influenza, il dialogo interiore è inevitabile. Gli altri membri della famiglia magari sono a scuola oppure fuori a lavorare, e allora si resta lì da soli nel letto a interrogarsi sul senso della vita, e poi normalmente si finisce per guardare qualche video su YouPorn, che in qualche modo è sempre una forma di dialogo con se stessi. Però quest'anno c'è una novità. C'è già stato un assalto ai vari pronto soccorso di tutta Italia. Per assalto e pronto soccorso si intende un numero di persone per cui prima di essere visitati bisogna aspettare molte ore. Molte ore, quindi, rispetto al solito non c'è nessuna differenza, anche perché sicuramente chi arriva al pronto soccorso con l'influenza non può ambire a nulla di più che al codice bianco, e quindi la lunga attesa è inevitabile. Certo, per essere visitati più rapidamente si può ricorrere, do il consiglio, a qualche stratagemma, per esempio fingere delle complicazioni che non ci sono, cose che già molti italiani fanno, dire che ci si sente svenire, anzi fingere di svenire lì per terra appena entrati al pronto soccorso. In quel caso probabilmente si può essere dotati di codice giallo. Oppure entrare e fingere di avere allucinazioni, oppure ancora cercare di corrompere con del contante qualche infermiere del triage. Perché noi italiani, quando siamo al triage del pronto soccorso, tendiamo sempre un po' ad aumentare i sintomi, quantomeno si finge lo sguardo sofferente, poi si dice a casa la febbre era più alta. Però di regola la raccomandazione che ci sentiamo sempre fare è di non affollare le strutture ospedaliere, ma di andare solo se è strettamente necessario, se i sintomi sono diversi dai soliti di influenza. Insomma, bisogna andare al pronto soccorso solo se è davvero necessario. E quindi quando? Per esempio, quando a casa da soli dopo un paio di giorni ci si comincia ad annoiare, in quel caso fare una gita al pronto soccorso può essere un diversivo utile per non affondare nella noia. Oppure quando a casa c'è tensione e i familiari non ti sopportano più, essendo più abituati in casa a stare senza di te. Se non si vuol far naufragare il matrimonio, può essere utile andare al pronto soccorso. È utile andare al pronto soccorso anche quando si è singoli, di solito c'è sempre qualche infermiera carina con la quale poterci provare. Ma il paradosso è che molti di noi affollano il pronto soccorso, a volte anche in modo immotivato, e poi non vedono l'ora di andare via. Tutti noi speriamo di essere subito dimessi, di tornare subito a casa, di solito senza una cura risolutiva, ma solo con qualche sintomatico che avremmo potuto prendere anche a casa da soli. Insomma, spesso andiamo al pronto soccorso senza motivo, solo per essere rassicurati, per avere l'impressione che ci sia qualcuno che si prende cura di noi, perché a casa ci vedono come dei rompiscatole, oppure semplicemente perché non abbiamo nessuno che ci dia una carezza consolatrice. Ecco, più dei pronto soccorso che si occupano delle nostre influenze, avremo bisogno di un pronto soccorso carezze, che è quello che veramente ci serve. I medici sarebbero più liberi e staremmo tutti meglio, sia i pazienti che hanno davvero bisogno di cure che quelli che hanno bisogno di conforto, anche umano. Pronto soccorso carezze, e io sono sicuro che sono la maggioranza. E allora, per premiarti, caro Leonardo, ecco a te Anna da Milano, la snob milanese. Prego, Anna. Buongiorno, Anna. Buongiorno, Leonardo. Non sai quanta compagnia mi fai alla mattina in queste giornate noiose. Ma anche alla sera al cinema, se volete andare. Sì, sì, adesso poi figurati. Ho anche la riduzione, sono arrivata a questa età, per quello che dico sono troppo vecchia. Ma no, per proviamo ugualmente, Anna. Attenzione, attenzione, Leonardo dice. Proviamo ugualmente, vediamo se c'è un feeling bene, tra di noi. Va bene, guarda, no. C'era un film cinese che sì. Portai degli amici che ancora a distanza di 20 anni me lo rinfacciano. Tutto in lingua originale, tutto senza sottotitoli. Sì. Allora, e la ragazza piangeva per 35 minuti. Io le consiglio allora un film veramente noioso che io ho apprezzato molto. Si chiama Schulz vuole suonare il blues. È uno dei film più noiosi che ho visto, ma sono rimasto in sala e mi sono anche divertito. Vabbè, dobbiamo fermarci qui perché c'è il giornale radio, ma se la musica è di buon auspicio lo vedremo. Grazie, Anna. 1, nessuno, 100 Milan. Paperback writer. Allora sono le 18 minuti ed è la... Aspetta, facciamo ascoltare questa bella canzone. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Near, and I need a Vorremmo accogliere così, così John Peter Sloan. John? Harry and Meghan have become a mega couple, one of the most famous double acts in the world. But perhaps no one expected the extraordinary statement released tonight. A statement that the BBC understands was made without the consultation of other royals, including John Peter Sloan! Good morning, come state? Bene, bene. Ciao, John. Allora, intanto, ciao, caro, ciao. Leonardo scommetteva che tu a quest'ora non avresti mai risposto al telefono. E invece eccoci. Stai qui. Stai peggiorando, ti alzi presto. Mi sono alzato per andare in bagno, è completo culo. È proprio. e ha visto 15 chiamate. Sì, quindi... è vero, ho detto minchia. No, è la cosa bella di essere cioè, l'unico inglese in Italia. Sì. È che quando succede qualcosa in Inghilterra sono sempre prima di tutti, perché detto, minchia, 15 chiamate, qualcosa è successo. Chiamano sempre te. Non ti stai annoiando di questa cosa? Che alla fine ti chiamano sempre per l'Inghilterra? No, è bello, se ci pensi, se fossi in Inghilterra adesso sarei quello che sto nell'angolo al pub in Inghilterra lamentando di tutti, non mi caga nessuno, almeno qua io lamento e qualcosa, qualcuno mi sente. Almeno è l'occasione per dire la tua. Allora, abbiamo, se ve lo ricordate, è stato il nostro ospite qui in studio quando ha presentato Welcome to Italy, l'ultimo suo libro, ma adesso quando abbiamo visto questa storia della detronizzazione, come si dice detronizzazione in inglese, John? Non ho idea, però se vuol dire, se intendi che loro vogliono fare una vita normale, non vogliono passare la vita a aprire supermercati in giro per l'Inghilterra, ben venga. Alla fine lei è come Diana, cioè, dicono che tanti uomini scelgono la donna come la mamma, cioè, questa è come la mamma di Harry, lei fa quello che vuole lei, ha una personalità, ha un cervello indipendente e questo nel famiglia reale non è mai apprezzato. Cioè lei tornerà a fare l'attrice probabilmente, vorrebbe tornare a fare l'attrice, ma lui invece cosa potrebbe fare? Perché lui di fatto non ha una preparazione specifica. L'autista, credo. L'autista dell'attrice. No, lui fa esattamente quello che vuole lei, finora ha parlato solo lei nelle interviste che ho visto, però lei è stata anche trattata abbastanza male dalla famiglia reale, lo guardano un po' da in alto, comunque è sempre una ragazza americana, lei dice, senti, qua noi abbiamo una regina che in 70 anni che è sul trono non abbiamo mai neanche una volta sentito quello che pensa lei di una singola cosa in 70 anni, è un burattino. Completamente tutto quello che dice, scritta, preparata, e questa c'ha una personalità, quindi non può stare nella famiglia reale, guarda, quindi stanno meglio fuori. Hai la stessa reazione che ha avuto la nostra Elisabetta Fusconi qui in studio, che nella nostra redazione, che sa tutto di queste cose, sa tutto, sì. si interessa solo di questo, è incredibile, una vita tristissima, e ha detto questa mattina appena arrivata, ha detto ma Harry è uno schiavo totale della moglie, uno schiavo totale della moglie. Ma lo siamo tutti, Ale, dai. Lei ha più pubblicamente, noi siamo più dominati in privato. Lei pubblicamente. No, guarda che Harry non è Peter, anzi, cioè, anche lui è molto ribelle. Se ci pensi, cioè, questo è uno che a 15 anni fumava le canne, si vestiva da Hitler. Sì, è vero. Cioè, comunque, anche lui è comunque sempre un po' spirito di Diana qui, perché Diana è stata la prima di andare contro il protocollo, ha rotto molto le scatole nella famiglia reale, è un po' la sua, come si può dire, spirit, però almeno, mamma mia, almeno fanno qualcosa di umano, cioè, se vedi il fratello è un po' come la regina, cioè, dicono sempre le cose appropriate quando devono dire, c'è una noia mortale. Ho capito, ma sono dei reali, mica sono John Peter Sloan che si sveglia e dice quello che pensa. Me piacerebbe essere nella famiglia reale, mistica. Ah, perché altrimenti dai l'impressione, da un lato, di voler avere i privilegi della famiglia reale e poi però dall'altro di voler fare anche una vita diversa, o no? Sì, vabbè, ma alla fine loro possono fare quello che vogliono, sono liberi di farli. Cioè, adesso... Io dico sempre comunque andare contro la monarchia è sempre un po' pericoloso. Io ho letto adesso questa mattina che lei vorrebbe dividere la vita tra Londra e America, lo consiglierei soltanto di evitare Parigi a questo punto. Di evitare Parigi, vabbè. Sì. No, ma tra l'altro la questione interessante è veramente, adesso ci vorrà tempo, questa è stata la risposta di Buckingham Palace, è una situazione per la quale ci vorrà molto tempo, nota la prudenza. Cosa faranno? Cioè, cosa è presumibile che possano fare concretamente? Per me spariranno, nel senso che ci vuole tempo, il Buckingham Palace non decide. Guarda, il peggio che possano fare è togliere i titoli, però a questo punto cioè con queste azioni comunque diventano miti, non soltanto per gli inglesi ma in giro per il mondo. Sì, questo è vero, sono percepiti come dei coraggiosi, se non altro, dei grandi coraggiosi. Ma alla fine la monarchia cosa possono fare altro che, cioè possono togliere i titoli, ma loro sono già molto mega famosi, sono mega ricchi, cioè vogliono una vita abbastanza normale. Se tu vedi comunque il resto della famiglia reale sono profondamente infelici, prigionieri, non possono andare da nessuna parte. Questi non vogliono entrare in questa situazione. Tutti pensano, soprattutto le ragazzine, che pensano che essere parte della famiglia reale è una fantasia, è una magia. Sempre per esempio Elisabetta Fusconi, cioè perché lei si interessa, perché vorrebbe far parte, vorrebbe essere lei, vorrebbe entrare lì a corte. Quindi possiamo dire che tutte le favole che ci hanno raccontato bambini e Cenerentole sono tutte delle cazzate. Sì. Anche se sono cazzate. Tu pensi che quando noi eravamo bambini in Inghilterra, mi ricordo che a noi ci raccontavano che in Buckingham Palace ci sono 400 stanze, ma si facevano un piccolo indovinello. Qual è l'unica cosa che non c'è nel Buckingham Palace? Ed era il bagno, no? Ovviamente, perché cosa serve un bagno? La regina non fa certe cose. Tu pensa, cioè, come siamo cresciuti noi, c'è questa famiglia perfetta, ideale, però sono prigionieri. Se Meghan vuole almeno un minimo di normalità per sua famiglia, però allora la dico così, e perché si deve sposare Harry allora, se vuoi un po' di normalità? Perché molti diranno, se tu entri in quella famiglia sai in che famiglia entri, non è che ce ne sono tanti al mondo. Tu stai dicendo lo stesso identico cosa che dicevano su Diana, no? Perché Diana che lamentava sempre della paparazzi, dicevano certo. Ok, però tu hai sposato dentro questa famiglia, però questa è stata più furba di Diana, perché lei ha soldi a vita, fama a vita, può fare quello che vuole ed è uscito dall'unico parte negativo che fa parte della famiglia reale. Ha fatto un colpo geniale perché comunque perché ha sposato lui. Ragazzi, stiamo parlando adesso, vi dico, ma stiamo parlando di tutta questa faccenda come se l'amore non contasse niente, cioè è stata furba, ha fatto ragazzi. Qui, ha fatto là, abbiamo completamente bypassato i sentimenti. Non c'è, io sono d'accordo con te che non c'entra niente. Sì, l'amore. Dico, io sono d'accordo con te che non c'entra niente, però lo diciamo in modo chiaro. Allora, se lei l'amo o no, questo non lo posso sapere, penso di sì, però io sto solo dicendo, lui adesso ha chiesto perché allora dovrebbe sposare Harry. Perché no? Lei tanto fa quello che vuole, no? Cioè, lei adesso ha fama e ricchezza per vita, garantita, e non deve aprire tutti i supermercati ogni domenica, ecco. Piovoso in Inghilterra. Ecco, perfetto. Ma garantita perché, cioè, sei sicuro, come dire, la regina Elisabetta, Buckingham Palace, non potrebbe anche, come dire, togliergli i finanziamenti e dire... Assolutamente vivete, sì, ma vivete, quanto costerebbe a Radio 24 invitare questi due adesso per un'intervista? Tu certo, pensi mai che mancherà il lavoro a questi due? No, infatti, una bella intervista alla CNN, $1 milione e via, in esclusiva e via. No, certo. Vabbè. John Peter Sloan, ti lascia. Quindi adesso cosa fai? Torni a dormire perché sei andato in bagno, ma sei un po' prolungata la. No, sto salendo a Milano. Che se posso dire veloce, ho perso la nuova scuola a Milano finalmente. In via Macchi, se posso dirlo. Sì, certo. Una delle tante scuole. Sto salendo a Milano perché ho fatto i nuovi corsi per bambini e adesso lanciamo tutti i nuovi corsi a Milano, quindi sto salendo da voi. Anch'io sono inglese che vado su e giù. Però con un po' meno fama. Grande John Peter Sloan, grazie. Grazie. Thank you. Orange. Ricordiamo sempre, ti ricordi la pronuncia Orange? Non orange. Ricordo, ma io lo dicevo già bene. Orange sarebbe black. Tu che dici orange. No. anche un po' con la E finale, Orange. Orange. Dai, dobbiamo mandare le informazioni sul traffico. Abbiamo dunque soddisfatto tutti i curiosi, i tantissimi curiosi in Italia e nel mondo. Tra i quali io non rientro, peraltro, perché della famiglia reale non me ne può fregare di meno. Vedi che siamo d'accordo almeno su una cosa, anche a me non interessa, ma qui vige la dittatura di Elisabetta Fusconi e poi abbiamo è nata questa sfida, chissà se Sloan è sveglio o non è sveglio, e a volte le cose nascono così, dai. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:20 minuti. Caro Leonardo Manera, adesso abbiamo chiamato il mio scrittore preferito, che è Mauro Corona. Corona, buongiorno. Per chiedergli della monarchia inglese, sì, mi sì, ha detto. Sì, sì, io voglio subito sapere. Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno a voi. Adesso parliamo di montagne, eccetera. Ma io prima un commento sulla detronizzazione di Harry e Meghan. Ne abbiamo appena parlato, ne parla tutto il mondo. Questi reali d'Inghilterra che non saranno più reali, una visione da Erto Lavoglio, da Mauro Corona. Ma è una delle poche cose buone, liete e gradevoli notizie che ho sentito. Ma perché bisogna... qualcuno decide che quelli hanno, che delle persone hanno sangue blu e sono superiori a noi, potevano star bene, non so, nel Medioevo, all'età del... ma adesso uno è come me, va al cesso, si siede sul water, no? E ha sangue blu e bisogna inchinarsi, ma io quando vedo anche, io ho avuto 4 figli, no? E nessuno se n'è accorto, per fortuna, ecco, partorisce il figlio della regina d'Inghilterra tutto, ma chi se ne frega se è nato il bambino della regina del figlio della regina d'Inghilterra. Io sono d'accordo, ma anch'io, però pure pare che ci siano bambini, vanno amati, vanno accuditi, amati, tutto il mondo deve sapere, magari c'è gente che non ha la paga del mese, però deve sapere che il figlio della regina, ma che cazzo se ne frega. Io me lo vedo Mauro Corona magari a Buckingham Palace, che arriva lì sempre rigorosamente in maniche di maglietta, bandana e alè, insomma, Ma posso anche vestirmi bene come ho fatto, certo, in una trasmissione nota televisiva, perché non è che io non abbia un fracco, una redingote o una giacca, mi piace andare via così. E avrei preferito che la gente notasse che ho scritto 30 libri piuttosto che vado via in maniche, certo, corte. Ma certo, siete tutti miopi. No, ma non è vero, qua parliamo sempre, perché qua parliamo sempre in televisione, arriva prima l'immagine, sempre l'immagine del contenuto. Ho fatto più di 1000 sculture, ho scalato le montagne del mondo, ovviamente per conto mio, non è che uno debba sapere. Ma se qui parliamo anche delle medaglie, ti vuole in maniche, in mezze mani. Ma se qui... se mi vesto ti dico, ti sei vestito, ma andate a quel paese. Ma se qui, Corona, parliamo anche delle sue medaglie di Bob nel campionato italiano, abbiamo parlato anche di un europeo a San Moritz. È un europeo a San Moritz. Allora, Mauro Corona, ieri abbiamo parlato della chiusura degli alimentari di Podenzoi, frazione di Longarone, perché si ricorda che dicevamo la montagna che muore, la montagna è una roba indegna veramente, la montagna. Io vorrei che chi si occupa di amministrazione, ma non solo a livello del paese, a livello nazionale, a Roma, che capissero che si stanno uccidendo. Perché ha chiuso Podenzoi, Sacchet, però chiuderanno anche qui, chiuderanno a Casso il bar, che sono 14 persone, perché la nuova legge ti impone, se vendi un bicchiere di vino, di avere uno strumento di comunicare all'agenzia delle entrate. Sono robe infami. Ho messo i vincoli. Quel peggio ministro, che mi sa anche simpatico, Franceschini, perché alla fine sono di quella parte di politica, sì, di sinistra. Ma ha messo i vincoli in comerico, perché non si può fare un collegamento alla gente. Devi dargli del lavoro in montagna. La montagna non è la montagna. La montagna è chi la vive, chi la guarda, chi la vede. La montagna la mattina non dice, che bella che sono. È l'uomo che guarda la montagna e la vede bella. In questo momento la si vede brutta. Voglio vedere adesso il mondiale di Cortina e le Olimpiadi di Cortina, voglio vedere il Franceschini quanti vincoli metterà. Vediamo. Tanto, guarda che sì, Corona, ieri abbiamo chiamato il sindaco, ma anche oggi l'abbiamo richiamato, il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, sindaco che ieri era dal Papa. Com'è andata sindaco, sì, dal sì. Papa? Sì. Anche lì è andato dal Papa. Vada, toglie gli Antovelox che ha massacrato la gente, glielo dico in faccia io a Roberto, che sono amico. Eccolo là, non subito. Che si inchini dal Papa, sua santità, sua maestà, tolga quei sciagurati autovelox, sindaco, cosa fa? Mette gli autovelox che sì, Mauro Corona. Buongiorno a tutti, intanto uno l'ha tolto, ma no, allora aspetti Corona, che sì. Che vanno a lavorare, caro Roberto. Il sindaco glielo toglie, vediamo in diretta, vediamo un po', sindaco. Allora, a Mauro gli ho spiegato che intanto quei velox lì sono utilizzati solo 6 mesi all'anno, dal 15 aprile e al 15 ottobre, e non sono fissi. Me l'ha detto la Meloni, Roberto, è per fare cassa. E non sono per far cassa, ma sono stati messi per cercare di fare in modo che soprattutto i motociclisti. Aspetti Corona, aspetti. Non fate bugie, Roberto. Vabbè, dai. I motociclisti, quando hanno passato quel punto, corrono più di prima. Non dire bugie, punto. Eccolo, per far cassa. Che dice, sindaco? Io dico che li ho messi semplicemente perché non sapevo come fare per questi motociclisti che utilizzano quella strada che porta alla diga del Vajont, mancando di rispetto ad un luogo sacro che ha provocato la morte di tante persone, non sono stato in grado di bloccarli. E allora ho messo questo deterrente che per fargli andare secondo più me piano. In parte ha funzionato, devo dire la verità, ma io sono disposto, gli ho detto a Mauro a quattro occhi, di toglierli immediatamente se le cose si sistemano, perché non ho bisogno capito, di questi soldi. Corona, lo sa Mauro, perché io glielo ho detto che quando la cosa è risolta io non ho assolutamente bisogno di far cassa con quei soldi, anche se ormai insomma la gente che vive qua lo... Senti Roberto, devi dirmi le robe che stanno in piedi, che noi siamo amici e tifiamo anche Milan. Grandi anch'io, anche Manera, tutti quello, qua. Non quello che conduce la trasmissione. Vabbè. La gente di Erto che fa lavorare in un garone, magari una mattina è un po' in ritardo, deve accelerare un po' e si beccano la multa. E sono soldoni. Mauro, io ti do ragione, devono essere spazzati via. Viviamo in un'Italia amministrata da cose storte e lo sanno tutti. Insomma qua siamo tutti per la montagna adesso. I velox sono stati messi nel periodo 15 aprile 15 ottobre 2019, 14 giorni. Corona, porta avanti questa battaglia, tirali via. Però almeno su una cosa siete d'accordo, su come salvare la montagna, cioè ieri già il sindaco ce l'ha detto: meno burocrazia, allora, meno leggi, meno regole. Guardate, le parole che ha detto prima Mauro, secondo me sono parole sante e le condivido pienamente. Ho cercato di approfondire tra l'intervista che ho fatto ieri e quella di oggi quello che è veramente il problema che poi Mauro prima ha accennato, il discorso di questa introduzione di questi registratori di cassa e questo collegamento comunque telematico diretto all'Agenzia delle Entrate su quelle che sono le attività. Credetemi, questa è una cosa che non può stare in piedi. Questa mattina ho ricevuto una telefonata da un fruttivendolo di Fara dal Pago, che è un altro comune qua della provincia di Belluno, il quale mi ha detto: fatti sentire in tutti. Sai che qui però a giugno, sindaco, molti ci hanno scritto dicendo: qual è questo problema di mettere sto registratore? No, costa che la linea? A giugno va a regime questa introduzione, mi dicono che chiuderanno moltissimi altri piccoli negozi, perché ci sono zone dove non arriva internet. Per esempio. Dove il wifi, per installare il wifi ci sono dei costi. Comunque ci sono dei costi di mantenimento anche della linea, cioè avranno circa 1000 euro di costi all'anno. Credetemi, un piccolo paesino com'è Podenzoi di 250 anime, 1000 euro all'anno incidono in quella che è l'attività e il servizio, perché questa non è un'attività commerciale, questo è un servizio ai cittadini che vivono la montagna. Quindi il nostro grido d'allarme è proprio rivolto fortemente perché per la montagna vengano fatte delle norme specifiche che tutelino questo territorio. Questo è un po' il messaggio che, sì, sì, che dobbiamo dare. No, quindi sono problemi legati alla rete, alla fine. Alla rete, ai costi. Molti non hanno, cioè, insomma, non è che dove si vive in montagna arriva sempre il segnale, il wifi. Va bene, quindi Mauro Corona, vede che poco alla volta facciamo. Che io sono d'accordo su tutto con Roberto, tranne su questi aggetti. Tranne questo autovelox. Però sì. Il problema è anche più in alto, sta chiudendo la Safilo, che stanno chiudendo le fabbriche, bisogna fare leggi, questa Italia ormai sfasciata, incapace, buona a nulla, ipocrita, che fare leggi che non si può delocalizzare le fabbriche o chiuderle addirittura, ma lei si rende conto, 400 persone disperate che non hanno più la paga, con bambini, affitti, ma scherziamo, guardate che la gente prende le armi, è stanca adesso di infierire sempre sulla montagna. Sì, invece che fare la TAF, facciano strade buone, che domenica scorsa c'erano, il giorno dell'Epifania, c'erano 15 chilometri di coda, Roberto lo sa, Vendicadore a Belluno, lo so, tutti i santi giorni. Anche perché sai qual è il problema? Che oltre alla coda, se per sbaglio succede qualcosa di grave, non c'è neanche la possibilità all'ambulanza di passare. Sì. Se qualcuno sta male, come facciamo a portarli, non so, da ospitale di Cadore, da Castellavazzo a Belluno in ospedale, dobbiamo prendere l'elicottero. No, no, ma è chiaro. Tre ore fermi in galleria, gente che è stata male, ma vi rendete qua e vogliono fare il ponte a Messina, la TAV, gli F-35, il MOSE. Io sono stato sepolto dall'acqua alta in novembre a Venezia, vogliono fare il MOSE. Ma questa è un'Italia che ormai si avvia sulla linea della delinquenza verso la gente povera. Sì, devo dire che ieri quando abbiamo lanciato questo tema, e invito a farlo gente di montagna, ecco, facciamo questo appello così, se volete scriverci come ieri, ci hanno scritto da tante realtà, di varie regioni, dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige, realtà dove non ci sono i servizi essenziali, chi non ha l'ambulatorio del medico, chi non ha un bar, chi non ha un ristorante, chi non ha la posta, chi non ha uno sportello bancario, per carità. Insomma, sono un scelte. Po' un cane che si morde la coda, perché sì. Poi i paesi si spopolano da un lato e si spopolano perché non ci sono questi servizi anche. Sì. Continuiamo in questa campagna. Ringrazio Mauro Corona, ringrazio ancora il sindaco Roberto Padrin, sindaco di Longarone. Bisognerebbe finanziare le piccole attività commerciali con altri autovelox. Meno male che Corona non ti sente più, perché altrimenti ti saltava in testa. Hai visto com'era accanito sull'autovelox? Visto che Mauro Mazza ha messo degli autovelox anche qui nel corridoio di Radio 24 per chi va a piedi. Forse col beneplacito di Confindustria, sì. Detto, chi supera i tre all'ora? Beh, tu l'entopede sei tranquillo. Ma gli altri, quelli che hanno molto da fare, incassa Mauro Meazza. E si mette lì appena attorno alla chiusura del giornale radio, quando la gente corre a registrare i servizi. Devo correre a registrare un servizio, tic tic tic, e lui fa... L'autovelox pedonale, è stata l'invenzione di Mauro Meazza. Va bene. Dai, andiamo a sentire la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App. Semplice, rapida, conveniente. Da smartphone e tablet. Credit Reform. Primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreforma.it. 1. Nessuno. 100 Milan. I ain't no Christian or no born again saint. I ain't no Allora, abbiamo capito alle 10:37 minuti che il problema è questa innovazione, introduzione del registratore di cassa a cui sono obbligati a tenersi tutti, magari anche in luoghi dove non arriva il collegamento con l'agenzia delle entrate perché manca la linea, manca il wifi, mancano le cose, insomma, quindi... Che devono fare? Registratori di cassa sono fondamentali, elettronici, collegati wifi col ministero, con l'agenzia delle entrate. Ma se ti puoi permettere il registratore di cassa wifi, vuol dire che puoi permetterti anche molto altro. Device di ultimo modello. Ma no, è la legge. Cuffie senza filo. Ma no, è la legge. Computer costosi. Quindi, se puoi permetterti il registratore di cassa collegato wifi con l'agenzia delle entrate, sei ricco. Benestante, vivi nel lusso. Ma no, sono in montagna. Sei sempre a comprare nuove apparecchiature elettroniche. Reddito previsto 2,5 milioni di euro. E su quello tasse. Godi nel comunicare i tuoi scontrini direttamente all'agenzia delle entrate. Ti fai bello con i tuoi clienti. No, veramente no. E allora paga. E su quello interveniamo noi, perché chi vuol vivere nel lusso, nella bambagia. La bambagia, chi vive nella bambagia, ti piace la bambagia? Il lusso, la bambagia, vuoi comunicare direttamente perché puoi vantarti con i tuoi clienti? Prendi un bicchiere di vino che io lo comunico all'agenzia delle entrate. Perché lo fai? Perché io vivo nella bambagia. Non è vero. Oh, la bambagia, bravo. E allora continua così e noi ti tassiamo, tasse fino alla morte, con le quali potrai entrare in una bara tutta rivestita di bambagia, una bara piena di bambagia. Magari hanno anche gli scontrini in Kashmir, chi lo sa, esce lo scontrino Kashmir e bambagia o in microfibra, chi lo sa. Via della bambagia, dove abiti tu, Milan? No, dove sei? In via della bambagia, in via Le Monza, molto più prosaicamente. Va bene, la ringraziamo Ragione Crosta per questa incursione. C'è Antonello che ci chiama da Milano. Buongiorno Antonello. Sì, buongiorno a lei. Volevo intervenire a proposito del signor Mauro Corona e della montagna. Io sono motociclista, quello che ha detto il sindaco, sono totalmente in disaccordo. La montagna è una cosa bellissima. Ci sono degli esempi in altri paesi come in Austria, dove non ci sono gli autovelox, le strade, quelle particolari di montagna, sono a pagamento per i motociclisti, non con la vignetta, con un piccolo casellino, e giustamente chi usa quella strada così, chi beneficia di quelle bellezze lì, è ben disposto a pagare una piccola tassa. Per quindi lei è dalla parte di Mauro Corona che vuol togliere l'autovelox, però il sindaco dice: io non conosco bene la situazione, che c'era stata una situazione di emergenza con anche degli incidenti, delle vittime, per cui è arrivato a mettere perché pare che ci siano dei tratti dove i motociclisti corrono molto. Questo sì perché ci sono, come in tutte le cose, c'è la persona intelligente e la persona stupida, però se dobbiamo preservare la montagna e non vessare i residenti, questa è una soluzione. In Austria c'è una strada bellissima che è il Grossglockner, che è famosissima per quanto riguarda tutto il mondo motociclistico in genere. Arrivano dall'Inghilterra per girare su quella strada lì, per godere di quelle montagne, di quelle strade lì. La strada è a pagamento, costa ben 25 euro per ogni moto e 50 per le auto, e le dico che è piena, vale la pena. Quindi bisogna valorizzare e la montagna, come dice Corona, e non vessare i residenti, perché se no scappano, come vuol fare il sindaco. Adesso il sindaco non diciamo che vuole vessare i residenti. Ho detto che è stato attivo solo 14 giorni, in 6 mesi. È stato attivo 14 giorni e per situazioni di emergenza. Il sindaco non è una persona che vuole vessare, anzi vuole fare in modo, e ci ha lanciato anche lui questo allarme di come non sia facile applicare in montagna. Lo so che sembra, come dire, una sorta di esenzione dalle regole, ma non è così, ma non si può applicare le stesse regole a comuni, piccole frazioni di montagna dove magari l'alimentari è, oltre che una rivendita alimentare, un servizio pubblico, un punto di ritrovo, perché se tu devi ogni giorno fare 15 km per comprarti il pane, col tempo, soprattutto i più giovani dicono: ma sai che c'è, io abbandono e vado. Oppure smetti di mangiare pane. Fare 15 km. Poi c'è la pasta. Smetti di mangiare pane e pasta, meno carboidrati. Vorrei una fettina di carne, però. No? Sono troppa carne, non fa bene. Sì, ma due uova, insomma, devo fare 15 km. Le uova sono piene di colesterolo. Vabbè, però il burro per fare il soffritto. Il burro, ciao, ti sale anche lì colesterolo a 1000. E quando finisce l'olio? L'olio, beh, puoi mangiare più sano se cuoci a vapore. Vabbè, però ho terminato il sale, quindi devo fare qui. Il sale fa salire la pressione. Va bene. Grazie Antonello da Milano, c'è Indro da Reggio Emilia, eccoci. Sì, buongiorno. Io chiamavo riguardo il reddito di cittadinanza. Sì, benissimo, eccoci. No, io non capisco tutta questa campagna che da più parti si sente contro il reddito di cittadinanza, mentre abbiamo pagato pensioni di invalidità per anni a gente che di cui non aveva bisogno. Vergognoso, vergognoso. Però io non ho mai visto questa alzata di scudi contro le pensioni di invalidità. No, beh, insomma, sono vergognosi. Io capisco, lei dice, perché se ci sono i delinquenti buttare anche, esatto, tutto il provvedimento. Perché... Ma io, Indro, guardi, però oggi l'ho precisato e l'ho premesso 4 volte in maniera chiara, dicendo: non sono contro il reddito di cittadinanza e l'idea di un'assistenza a chi è bisognoso. Sono contro a chi lo ha venduto in un modo, e cioè vi aiutiamo e poi vi inseriamo nel mercato del lavoro, salvo poi scoprire che il mercato del lavoro è indipendente dal reddito di cittadinanza e la creazione di posti di lavoro non è collegabile in alcun modo col reddito di cittadinanza. Ma i navigator nel frattempo cosa fanno? Non lo so. Sarà giocano a risico? No, non voglio essere, se no dicono che siamo ulteriormente polemici, ci vorrà tempo. Ma, come ha detto oggi il presidente dell'INPS, I posti di lavoro si creano se c'è crescita e investimenti, e questo col reddito di cittadinanza non c'entra nulla, c'entra con la ripresa economica. Ma vogliamo chiamare un giorno un navigator per capire com'è la situazione? Sarà interessante sapere da un navigator se effettivamente sta aiutando qualcuno a trovare lavoro. Quindi no, ringrazio Indro da Reggio Emilia, non c'è un levare gli scudi. Poi se faccio un pochino di cinema nell'elencare ironicamente i delinquenti che percepiscono il reddito in maniera truffaldina, lo faccio anche quando se ci sono le pensioni di invalidità, l'abbiamo fatto varie volte, false le pensioni di invalidità. Chiamiamo un navigator, se c'è qualche navigator all'ascolto, per esempio, ci chiami e ci dica come sta andando la situazione, se sta aiutando qualcuno, se insomma qualche percettore del reddito ha trovato lavoro grazie all'aiuto di un navigator. No, comunque lo ripeterò all'infinito: non sono contro la misura in sé, ma sono contro al modo in cui è stata, uso questa parola dura, spacciata. Cioè, vi aiutiamo nel frattempo di trovare un posto di lavoro e vi reinseriamo nel mercato del lavoro. Se c'è qualche navigator all'ascolto, potrebbe chiamarci e dirci come sta procedendo la situazione. Ma navigator, se ci sei. Ma cerchi un navigator per andare al cinema a vedere Kaurismäki? No, no, per sapere come va col reddito di cittadinanza. Se c'è qualche navigator, ci sarà sicuramente qualche navigator all'ascolto. Ci sarà, quindi quei navigators. Lo mettiamo anche al plurale. Diteci se il vostro lavoro vi soddisfa, se vi sentite utili socialmente ai percettori di reddito. Soprattutto se soddisfa anche il lavoro di chi percepisce un reddito e dovrebbe avere un lavoro, il vostro lavoro. Navigator, fatti vivo. Io vorrei un navigator. Non hai detto il numero, vuoi dare il tuo cellulare? Per il qual è il numero del verde di Radio 24? 800 24 00 24, è qui da 3 anni, non l'ho ancora imparato, ma c'è anche scritto lì, a caratteri cubitali, adesso mi dice che è miope, non legge fino a lì. 800 24 00 24. Appello ai navigator, vuoi chiamateci. Vuoi leggere i messaggi WhatsApp e SMS? 349 238 6666. l'ha fatto con nonchalance e arroganza a metà numero, ha anche girato la testa dal foglio per far vedere che lui lo sa. Sai che quando lavoravo anni fa in un'altra radio, Radio 2 nella fattispecie. Ma facciamo pubblicità a Radio 2, mi sembra il momento giusto, dai. Rai, servizio pubblico, Radio 2, cosa devi dire di Radio 2? Il responsabile della nostra trasmissione si arrabbiava tantissimo, sì, quando ci capitava di dire il numero sbagliato. Beh, effettivamente, come ora è una radio concorrente, ma come non capirlo questo responsabile? Davi il numero di telefono della zia Pina, e lui diceva, tutti chiamavano. E lui ci diceva: se c'è una cosa che dovete fare, è dare il numero, ma dai, giusto. Ma dai, ma che è questo genio della radio? Ma io vorrei ingaggiarlo subito e farlo mega direttore qui a Radio 24. Insomma. Quindi. Siamo. E tu? Perché io, tu lo sbagliavi? Ogni tanto sì, perché ero un po' distratto. Ma dai, comunque capita. Adesso l'abbiamo dato giusto. Sì, sì. 349-238-6666. Bravo. Gli hai detto. Sarà contento anche. E respira il cambiamento. Immagina nuovi mondi a partire dalle tue radici. Domina il presente e vivi il futuro cominciando dalle tue unghie. Con il tronchesino Calloni, mai più unghie fuori posto. Unghie sempre tagliate bene col tronchesino Calloni. Tronchesino Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Comunque Corona ha ragione, in montagna non c'è lavoro, non c'è nessun tipo di lavoro, non vi rendete conto. Guardi Milan, che costa anche metterlo, mia moglie ha dovuto metterlo in negozio, ma guardi che si paga, non è gratis. Beh, ovvio. Il problema del registratore di cassa che mi farà chiudere il negozio è che noi non abbiamo la DSL, perché costa anche quella e noi ci arranchiamo. Oltretutto io riesco ancora a capire del computer, ma ci sono per esempio altre persone che i computer non li hanno mai toccati. Va bene, vedi caro Leonardo, dica per cortesia maniera che le uova non alzano il colesterolo. Grazie Marco, evidentemente. Questa è una notizia, io ho sempre pensato che il tuo orlo facesse un po' salire il colesterolo, sì, questa è la vulgata. Se te ne mangi tre al giorno, non lo so, non siamo in un programma di salute, di benessere. Secondo me l'uovo, se ne mangi in quantità, un po' ti fa salire il rosso. Sì, o forse ti fa male al fegato. Va bene, 4, ecco, attenzione, arriva Lorenzo Nespoli che dice 4 a settimana se ne possono mangiare, di più. Dai, il dottor Lorenzo Nespoli è esperto di colesterologia. Invece l'albume si può mangiare senza problemi in grande quantità. Ma che cacchio, insomma, senti, ma vai da Nicoletta Carbone, anzi chiedi all'ospite qui che ci ha raggiunto in studio, che è il mitico dottor Mazza, lui ne saprà come condizioni di base. Sono completamente disinteressato alla questione. Ecco. Non me ne frega niente, ognuno mangia quello che vuole. Lei è arrivato alla sua veneranda età, ricordiamo. 104 anni. 104 anni, ecco, ha mangiato uova tante nella vita? Ha mangiato quello che capita, burro, paprika, uova, latte freddo, latte caldo con dentro le uova, paprika. Vabbè, quindi... Pizze dentro dei catini. Sarà la classica eccezione che conferma la regola. Va bene, caro dottor Mazza, come sta? È un problema. È un problema. Il pronto soccorso è intasato dai microbi. Dobbiamo spingere fuori a spintone i microbi, come quando devi scendere dalla metro e la gente non si sposta. E i microbi dovete spostare. Esattamente, è colpa di queste influenze che debilitano la femmina e devastano il maschio. Al pronto soccorso la percentuale di uomini è molto più alta, perché le mogli e le fidanzate, quando non ne possono più di sentire i compagni che si lamentano dal divano, li caricano in macchina così come sono, col pezzo sopra del pigiama infilato nei pantaloni, e li mollano da noi. E c'è da capire, queste donne lo fanno perché così finalmente possono andare a bere un caffè senza ricevere dai mariti messaggi vocali di aggiornamento tipo la situazione è stabile, 37,2, a che ora torni, oppure ho preso lo sciroppo ma la tosse non passa, mi compri un gelatino che fa bene alla gola, battito regolare, starnuti nella norma, viene a descrivermi le scene del film che non riesco a tenere gli occhi aperti. Ecco, molte ragazze arrivano già con la borsa pronta per il ricovero perché sperano di liberarsi dai compagni per più giorni. Ieri abbiamo beccato una femmina che infilava il termometro nel bollitore per convincere noi medici che la situazione del marito era grave. Ma ce ne siamo accorti perché il termometro segnava 48,8, un po' eccessivo. 48,8? Sembrava la temperatura di Abu Dhabi a luglio e l'aveva fatto appositamente la moglie di questo sventurato. Io l'ho già detto altre volte, colgo l'occasione per ribadirlo, non venite al pronto soccorso a spargere i vostri microbi, spalmatevi col balsamo di tigre, fatevi una tisana, non venite a rompere le scatole a noi. Ma come rompere le scatole? Di sera soprattutto, quando siamo in sala ecografia a guardare malattie imbarazzanti. Malattie imbarazzanti? Secondo lei le persone ascoltano questi miei appelli? Continuano a sgomitare per venire, per infilare. Chissà perché. Voglio mettere il braccio nel bracciolo gonfiabile dalla pressione. Si vede che provano qualche piacere. No, forse stanno male, dottor Mazza. Allora voglio dare una buona notizia a tutti gli ascoltatori. Io e i miei colleghi ci siamo organizzati per ridurre il numero di visite e quindi i tempi di attesa. Ah, bene, questo bene. È un sistema sperimentale molto innovativo. Vediamo, senti. Che va a sostituire i codici colorati. Il triage. Priorità d'accesso. Va Non bene. Abbiamo più i codici colorati. No, bene, cosa avete? È ancora un sistema al limite della legalità, ma stiamo lavorando insieme ad alcuni. Al limite del... Stiamo lavorando per renderlo legale insieme ad alcuni funzionari corrotti. In modo che al ministero chiudano un occhio. E lo dice così. Vabbè. Allora, come funziona? Come? La caposala, che ha fatto un corso online per diventare croupier, organizza una bisca clandestina. Quindi inizia un torneo di poker selvaggio in cui vale tutto. I vincitori di ogni tavolo, che ci sono lì nella sala d'attesa, possono entrare a farsi visitare. Gli altri vengono rispediti a casa. Così, malamente. Così, mi sa che è un pontantino illegale. Il sistema funziona molto bene, ma ha anche un lato negativo: sono aumentate le contusioni da rissa, che ognuno vuole vincere a poker. Ma in generale siamo contenti del risultato perché effettivamente il numero dei pazienti è diminuito. Anche nelle risse, insomma, è bello. Perché bello. Non tutti sopravvivono e quindi anche questo è un buon meno risultato. Meno lavoro per voi. Paziente deceduto non viene visitato. C'è solo una constatazione. Dice, non ce l'ha fatta. Lo fa anche la caposala. Poi lo metto fuori in attesa che passi qualcuno. Quindi lo ripeto ancora, non venite al pronto soccorso. Sicuramente in casa avete anche dei medicinali scaduti. Utilizzateli. Ecco, questo è un appello importante. Sì, questo è un appello che fa sempre. Non che io buttiamo non via condivido. I medicinali scaduti perché non al condivido. Massimo non sortiscono nessun effetto, ma vengono comunque utilizzati. Anzi, andate a prenderli nel cassonetto dei medicinali scaduti in farmacia. Provate a prenderli. L'importante è che li comunque prendiate a casa vostra. Quindi non venite mai al pronto soccorso e buona salute a tutti dal dottor Mazza, primario di pronto soccorso, esasperato dalle vostre richieste di stare bene. Però insomma io suggerirei di trovare qualche soluzione alternativa, dottore. Poi fate voi, fate voi un po' più nella legalità. Allora la mia teoria è che se la malattia è grave il medico non può fare niente. Beh, se non è grave si guarisce da soli, quindi è inutile venire al pronto soccorso. Così, queste sono le due grandi condizioni, bianco o nero. Bene, la ringraziamo dottor Mazza. Noi ci ritroviamo domattina puntuali alla stessa ora con uno nessuno 100.000.